Versetto 34. Si unirono assieme, eccetera, questa è la frase. I farisei, avendo saputo che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, in modo che non fu loro possibile rispondere, si consultarono assieme, cercando qualche nuovo cavillo per prenderlo in parola. Versetto 35. Lo interrogò per tentarlo. La sua intenzione non doveva essere buona da principio, ma in seguito fu mutata in modo da meritare la lode di Gesù. Marco 12, versetti 32 e 33. Versetto 36, la frase «Qual è il gran comandamento?» I rabbini giudei dividevano in 613 comandamenti della legge, 248 precetti e 365 proibizioni in due classi, gravi e leggeri. Non si accordavano però fra loro nel determinare quali appartenessero all'una classe e quali all'altra, e meno ancora nel fissare le condizioni perché un precetto potesse dirsi grave. Laonde vi era chi diceva più grande il precetto del sabato perché più antico, chi diceva più grande la circoncisione, eccetera. La domanda fatta a Gesù si prestava quindi a mille cavilli e mirava a trascinarlo nelle dispute che dividevano le varie scuole. Versetto 37, la frase «Amerai il Signore Dio tuo», eccetera. Con queste tre espressioni sinonime si vuol significare che Dio deve essere amato sopra tutte le cose, in modo che a Lui siano indirizzati tutti i pensieri della mente, tutti gli affetti del cuore e tutte le operazioni. La misura di amar Dio è amarlo senza misura. Il precetto è trattato dal Deuteronomio, capitolo 6, versetti 4-5. Versetto 38, la frase «questo è il massimo», eccetera. Nel greco si legge «il grande e il primo comandamento sia per dignità, sia perché comprende tutti gli altri». Versetto 39, la frase è simile, eccetera. Non uguale però. I due precetti dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo sono inseparabili. Questo precetto si trova nel Levitico, al capitolo 19, versetti 18 e 40. Prende tutta la legge, eccetera. Tutti i precetti e le ordinazioni della legge dei profeti, cioè dell'Antico Testamento, dipendono dall'amore di Dio e del prossimo e sono compresi in esso.